sulla bicicletta. Vola sopra il traffico, vola sullo stress, vola sull'asfalto, sul sterrato, sul pavè. Fa bene allo spirito, benissimo all'ambiente. Non esiste mezzo di trasporto più efficiente. Se incontro una salita e la storia si fa attesa, prima ancora che sia finita già pregusto la discesa. Vado alla pigrizia, dico largo all'allegria, tutti in sella a pedalare in compagnia. Veleggio, pedalo senza fretta, piano e galleggio sulla mia bicicletta. Velocipede, che grande invenzione, con la bici noi faremo la rivoluzione. Velocipede, che grande passione, libera la mente, il corpo e l'immaginazione, con la benedizione di Santa Graziella, santa tutelare di chi viaggia a pedivella. Niente più benzina, niente bollo da pagare, tanta pasta asciutta e poi trazione muscolare. Velocipede, che grande invenzione, sviluppa l'endorfina, attiva la circolazione. Velocipede, che grande passione, e non prendo più né multa né contravvenzione. Velocipede, che grande. Dopo questo pezzo tranquillo, sempre all'ascolto degli 87.9 in FM, speriamo vi siate svegliati piano piano dal coma di ieri sera, insomma speriamo che vi siate divertiti durante questo fine settimana, un po' di relax dopo i 5 giorni di scuola barra università barra lavoro barra quello che vi pare. E io so per quello che vi pare, so per barra quello che vi pare. Dai. E allora niente, presentavamo da poco il Debit che abbiamo invitato oggi qui in studio, che intanto ringraziamo per essere venuto. Grazie a voi, ci fa molto piacere. E oggi andremo a parlare un po' dello scenario della musica emergente per quanto riguarda l'hip hop, il rap. Lui ormai canta da parecchio, ha fatto uscire ad agosto il suo primo album, diciamo ufficiale, con una label. E vabbè, niente, se vuoi ti diamo qualche minuto per parlare di te. Va bene. Senza una domanda specifica, sì. Poi dopo ci diamo carta bianca e naturalmente non farci fare brutta figura. No, non è possibile. Allora, non è possibile questo. Allora, innanzitutto non ascoltate Onda Rossa. Radio Onda Rossa Forever, ragazzi. Allora, parliamo di sto disco, parliamo. Certo. Allora, il disco si chiama Don't Worry Be Debit. Ormai l'avete capito, penso, forza di dirvelo sempre. Don't Worry Be Debit, riprendendo appunto lo slogan Don't Worry Be Happy, che mi rappresenta particolarmente, adattandolo appunto al mio nome, abbastanza banale come cosa forse, vabbè. No, vabbè, devo dire, no, che secondo me è molto originale come anche cosa, però... Niente, un disco appunto basato sul sorridere, come si può vedere dalla cover, insomma, la copertina è uno scenario nero, uno sfondo nero, quasi uno scenario buio nel quale l'unica luce appunto è puntata sul sorriso, sul mio sorriso. E ciò sta a significare appunto il mio pensiero, il mio messaggio tra virgolette vorrei trasmettere con sto rap, con sta musica, che è appunto il sorridere nonostante si viva di situazioni non sempre fortunate e piacevoli, insomma. Il disco l'ho piacevolmente prodotto assieme al mio produttore barra manager barra mentore barra quello che ve pare. No, per quello che ve pare. Emanuele PHL, che saluto se sta ascoltando, se no non lo saluto perché dovrebbe ascoltarmi. No. Giusto, ci piace. Funky Nerd Productions. Ecco bene. E vabbè, io penso che ci possiamo già ascoltare un primo pezzo per poi addentrarci di più nel... Sì, sei ansioso di ascoltare. Sì, parecchio. E allora... Guarda, se non ti dispiace, io propongo di ascoltare il pezzo del quale ho fatto il secondo video di questo disco. Sì. E il pezzo si chiama Che fine fai? Va bene, è già pronto, ce l'ascoltiamo. Che dai, fine fai del Debit? È subito qualche problema tecnico e qui in radio non manca mai. Dai con la fortuna. Arriviamo, i computer non funzionano, internet scapoccia e non ci funziona manco questa base. Vabbè, abbiamo un altro pezzo invece. Non lo so se ci vogliamo. Proviamo a vedere se riusciamo a rimandarlo, sì. Un attimo. Vediamo qui. Tanto posso dirvi qualche cazzata del tipo: devo andarmi a tagliare i capelli perché sono abbastanza indecente, ho sti capelli. Ieri sera potevi anche non dirlo, perché tanto in radio non ti vede nessuno. Oltrepassiamo il limite dell'audio, insomma. Radio Onda Rossa è anche video, anche se non vedete. Eccoci. Abbiamo sentito qualcosa già. Fantastico. Che fine fai, produzione di Bicas, The Beat. E andiamolo ad ascoltare. Passa l'intendo, mentre invento intento sulla cassa nulla. Passa in questo tempio, scrivo un testo attento a come vive, certo è presto scempio. Un esempio, vita di routine, non so dove sto tra 20 minuti. Niente è più vero, in tasca 2 euro, non cedo uno sclero finché non mi nutri. Nella mia generazione, come nella via, c'è un generazione, sì, teme l'azione, sì. Vedono gli spalti, quando l'azione la temono gli altri. Di ciò che viene cosa posso sapere, ogni cosa per bene, un fosso in cui cadere. Io giro con le cuffie all'orecchio, con le buffie allo specchio, non cambio parere. Il mio futuro è essere il primo, dai. E non è stavolta, è che sta fotta ce l'ho dentro da quando ho letto The Beat sul primo flyer, fino a quando firmo mai. Io del mio futuro me ne frego, lo vivo prima. E se il mio futuro lo prevedo, te lo scrivo in rima. Io se non sai che fine fai, come pretendi descrivere un futuro se spendi i miei tempi per scrivere sul muro? Se non sai che rime fai, che rime fai? Vai a lavorare, vai a fare il culo, mi fai la morale, vai a fare il culo. Se non sai che fine fai, che fine fai? Come pretendi che scriva un futuro se spendi i tuoi tempi per scrivere sul muro? Se non sai che rime fai, che rime fai? Vai a lavorare, vai a fare il culo, mi fai la morale, vai a fare il culo. La gente pretende che ogni ventenne abbia patente e lavoro presente, con la sensazione di niente in mente, nella nazione in cui si diverte solo chi mentre cresce esce dallo stanzino col pesce nel ventre. Imminente il futuro e non sono sporadico, se ora dico che è più oscuro il presente. Io non riesco a fare altro oltre al rap, anche se giro in autobus. Io contesto, so me stesso e sto up, ma quando cado soffro di raptus. Rime come spine un cactus, check sulle puntine come cactus Jack, plus un mare di problemi, stufo come un brufolo col pus e lo premi. Se non vieni toccato dal discorso, hai il futuro spianato e non rischi incidenti. Se mo vieni toccato dal rimorso, come un morso sull'osso, stringi i denti. Sarò pure lo stotto e loro i dritti, hanno già i diritti che io forse conquisto, ma lo farò fino a morto. E loro zitti, i loro tragitti li ho descritti col disco. Se non sai che fine fai, che fine fai? Come pretendi descrivere un futuro se spendi i tuoi tempi per scrivere sul muro? Se non sai che rime fai, che rime fai? Vai a lavorare, vai a fare il culo, mi fai lavorare, vai a fare il culo. Se non sai che fine fai, che fine fai? Come pretendi descrivere un futuro se spendi i tuoi tempi per scrivere sul muro? Se non sai che rime fai, che rime fai? Vai a lavorare, vai a fare il culo, mi fai lavorare, vai a fare il culo. Non bruciare le tappe, non bruciare le mappe, non brucia cartine, fiducia a partire. Ma devi capire che non farai il rapper, chi rappaci anche se spaccaci deve zappa con le zappe. No doppia H in Italy, solo doppia giacca in Italy. Non bruciare le tappe, non bruciare le mappe, non brucia cartine, fiducia a partire. Ma devi capire che non fare il rapper, chi rappaci anche se spaccaci deve zappa con le zappe. No doppia H in Italy, solo doppia giacca in Italy. Se non sai che fine fai, che fine fai? Come pretendi descrivere un futuro se spendi i tuoi tempi per scrivere su un muro? Se non sai che rime fai, che rime fai? Vai a lavorare, vai a fare il culo, mi fai la morale, vai a fare il culo. Se non sai che fine fai, che fine fai? Come pretendi descrivere un futuro se spendi i tuoi tempi per scrivere su un muro? Se non sai che rime fai, che rime fai? Vai a lavorare, vai a fare il culo, mi fai innamorare, vai a fare il culo. Se non sai che fine fai, che fine fai? Ne stai inventando tante, stai diventando grande. Se non sai che rime fai, che rime fai? Ne stai inventando tante, stai diventando grande. Se non sai che fine fai, che fine fai? Ne stai inventando tante, stai diventando grande. Eccoci di nuovo in collegamento, 17-18 minuti, questa è Radio Onda Rossa e abbiamo qua in studio il Debit. Avete appena sentito Che fine fai? Beh, Che fine fai? Noi abbiamo letto un post su Facebook, naturalmente, sì. Un post che avevi fatto te e dicevi che questo pezzo ti rappresenta molto e volevo sapere un pochettino la storia di questo pezzo, che cosa hai provato nello scrivere, sì. E poi nella realizzazione finale di questo pezzo. Sì, allora, diciamo che la concezione che ho avuto per tutto il disco è di mantenere una sorta di filo a livello di pezzi, a livello di appunto connections tra un pezzo e l'altro, e questo pezzo è preceduto da un pezzo opposto, da un pezzo che parla appunto di un mio lato caratteristico del carattere, che è la pigrizia, appunto. il pezzo si chiama Non mi va, si chiama. Dopo il quale appunto nel filo logico che ho mantenuto in questo disco mi sono posto la domanda: ma se tu non hai voglia di fare tutta sta roba, che fine farai? Cioè, nel senso, il pezzo Che fine fai parla del concreto, del futuro, del come stanno le cose realmente, dei rimproveri che subisco dal mondo per appunto condurre una vita basata sulla musica e basta, insomma. E niente, lo sento molto mio perché il testo è un elenco tra virgolette di tutti questi rimproveri dei quali io me ne sbatto. Anche dal video poi si può notare che abbiamo rappresentato, diciamo, la vita classica di un ventenne disoccupato, nulla facente, che fa musica e basta. Sì, ho visto nel video che ci sei tipo te, che mangi. Sì, scene abbastanza degeneranti e disagianti. Sì, però è la vita quotidiana, sì, insomma. Sì, è la realtà. È la realtà, è quello che vedi nella città e in tutti i musicisti. Sì, il fatto è che solitamente in un video rap forse non vedi il rapper il rapper in pigiama, per dirti, quindi fa strano. Sì. Infatti mi ha fatto molto strano vedere questo video, però anche quella, devo dire, è un'idea molto originale. E un'altra domanda che ti volevo fare sempre su questo pezzo è: i loro tragitti li ho descritti col disco. Sì. A chi era inteso? Cioè, a chi ti riferivi con allora, questa frase? Allora, se analizzi il testo nelle barre precedenti, il pezzo dice aspetta, come fa? Se non lo sei te, non lo so. I loro tragitti li ho descritti col disco, evidentemente è riferito a persone che mi danno contro, persone che magari occupano il loro tempo della vita a parlare degli altri, a criticare e non fanno poi niente di costruttivo per la loro vita, non si fanno una vita realmente, delle quali appunto ho parlato durante il disco. Il disco se lo si ascolta interamente si capisce, insomma, di quali soggetti parlo. Per quello che dicevi sempre prima, per il connection che ci stanno tra le canzoni. Sì, certo, quindi... sicuramente. Ah, ho capito. E vabbè, in generale, noi adesso abbiamo sentito Che fine fai, tra un po' ascolteremo un altro brano del disco, ma tanto proporrei di andare avanti con la scaletta e ascoltarci un altro brano. Sì, sicuramente, vabbè, facciamo una pausa e diciamo che magari, nonostante ci faccia molto piacere ascoltare il tuo nuovo album, qualcuno vorrebbe ascoltare anche altro. In particolare oggi vorrei salutare un mio amico, che prima di un amico è anche un grande orso, e gli dedico questo pezzo. Fear the consequence. dazed by careless words, cozy in my mind. Wax, fitted out with crater cracks, sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. I hate to leave you bare, if you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Un'altra volta il computer scapoccia, guarda, io non so che fare, non so se so io che sedio, probabilmente anche quello, perché c'è sono stato. I residui di ieri sera, mi dispiace Tamerlano, però anche il computer si è bruciato gli ultimi anche neuroni. Anche il mio unico mi neurone. Stavo dicendo prima che il PC prima mi ha detto che ieri è uscito, è andato a ballare, ha fatto d'arte. Anche lui si è rincoglionito. Si è drogato, sì. Vabbè, sì. Sentite, vabbè, a questo punto riprendiamo il filo del discorso, visto che sei interrotto il pezzo. Guarda, è una presa bene averti in studio, non lo so, ti guardo, ti vedo ridere e mi fia bene. Sei fantastico, dovresti venire più spesso. Sì, ma nel frattempo te metti a posto il computer che fai casini e adesso li metti a posto pure, e noi andiamo avanti con l'intervista. Buonasera, siamo sempre qui, sempre Debit da Radio Onda Rossa. Adesso presento io. Ok, noi siamo congedati. Il Debit farà l'intervista a DV. Mi raccomando, quando te ne vai doppia mandata, noi okay, andiamo al bar, ci trovi qua sotto. No, volevo chiederti una cosa che sembra banale, però secondo me è molto importante. Quali sono state le tue origini? Allora, mia madre è calabrese. Allora, le mie origini musicali, due punti. Ho iniziato ad ascoltare questo tipo di musica grazie a Marshall Mathers ad Eminem, alle scuole medie, quando ho iniziato ad ascoltare la musica vera e propria, cioè nel senso quando ho cominciato a guardare MTV, a interessarmi della musica. Ho iniziato, inizialmente ascoltavo musica straniera, punto, perché avevo un rifiuto, non so se sinceramente perché, per la musica italiana, mi piaceva l'inglese e tutto, e mi sono avvicinato per questa cosa alla musica inglese. Esce fuori Eminem. che succede? È uscito My Name Is, e dal momento in cui uscì quel pezzo cominciai ad interessarmi a quest'artista biondo ossigenato, e con The Real Slim Shady firmai la mia conversione totale all'hip hop, sì, all'eminemesimo. Eminemesimo, una nuova religione qua, sì. Su Radio Onda Rossa, mi dispiace. Chi si vuole convertire entri nella pagina di Caffè Doppio e istituiremo la nuova religione. Vabbè, e quindi stavi dicendo, sì, grazie, Eminem, grazie a Eminem ti sei interfacciato al mondo dell'hip hop. Sì, è stato lui la prima ispirazione. Cosa. Sì, sì. E poi che cosa è cambiato in te? Col tempo ho iniziato a fare graffiti, per esempio, è stata un'altra delle cose che mi ha avvicinato ulteriormente a questa situazione, e di pari passo ho cominciato anche a scrivere delle cazzatielle, si può dire cazzatielle? Sì, si può dire. Per conto mio, che facevo ascoltare inizialmente giusto agli amici più stretti. Poi gli amici più stretti mi dicevano, oh, guarda che figo, allora ho preso coraggio, ho cominciato a farla sentire un po' più gente, poi ancora più gente, poi ancora più gente, e in futuro ancora più gente, ti spero. Quindi in questa fase tu stai al liceo e stavi facendo sentire ai tuoi amici di liceo, più o meno? Sì, sì, ho iniziato a fare rap nei primi anni del liceo, sì. Ho capito. Affermativo. Affermativo. Vabbè, il computer per adesso si è rimesso a posto, poi non so se dopo si riaddormenta perché era rincoglionito. Sicuramente, però se lo tocchi tu si rimpalla, guarda, questo è poco. Vabbè, adesso sicuro. Facciamo il cambio di posto e lo tocchi solo tu. Va bene, con me viene sicuramente. Vai. Vabbè, anche se questa affermazione era un po' ambigua. Era un po' caffè doppio, certo. Sì. Vabbè, senti, ci ascoltiamo un altro pezzo? Va bene. Ce lo presenti? Che ci vuoi mettere? Presentiamo questo pezzo. Allora, vorrei mandare un pezzo di cui non è uscito nessun video. Quindi tra le 12 scelte scegliamo Roma Scapoccia, che è un pezzo appunto che tratta della nostra city e del suo atteggiamento scapocciante, della pazzia che c'è in Roma spesso e volentieri. Il pezzo è prodotto da Brasca, che saluto, grande Brasca Man, e ce lo sentiamo. Roma Scapoccia, The Beat, Don't Worry Be Debit. Tu stai male, forse il tuo stato deriva da uno stato alla deriva dall'abitare nella capitale. Abitare nella capitale Roma può farti capitare in ogni zona, può farti scalpitare come una caprona, alisare ogni tipo d'aroma. Di questa vita ne ho fino alla chioma, tra queste dita ho il mic, non la corona. Roma non vuole capi, Roma è padrona, e non vuole conti sciapi, Roma è ladrona. Alle nove qui non piove, qui tuona, alle prove rime nuove si suona. Ogni rapper habla, si sprona, come alla Rambla Barcellona è Roma. E so più vivo, e so più buono, no, non te lasso mai Roma Capoccia. E senso più vivo, e senso più buono, sfioro il collasso, sai Roma Capoccia. Traffico de gente, io schiaffi bro per niente, in un ambiente dove sei strano demente, se sei sano demente, perché Roma Scapoccia, Roma Scapoccia, perché Roma Scapoccia, Roma Scapoccia. Il romano tipo si fa la boccia, non sei romano figo se non ti fai di, non sei romano amico se non bevi a goccia, se non c'è dalla roccia. Il romano vero sai come approccia, mette fuori il petto e le mani in saccoccia. Il romano nero da cartoccia, ti chiude come un lucchetto, chiedi la moccia. C'è una bottiglia in mano, la scoccia, c'è una famiglia, strano la sloggia. The beat, living in the street, non l'appoggia, la risposta la so già. La boccia, e so più vivo, e so più buono, no, non te lasso mai Roma Capoccia. E senso più vivo, e senso più buono, sfioro il collasso, sai Roma Capoccia. Traffico de gente, io schiaffi bro per niente, in un ambiente dove sei strano demente, se sei sano demente, perché Roma Scapoccia, Roma Scapoccia, perché Roma Scapoccia, Roma Scapoccia. Perché giran tutti a brutto muto a luglio quando è buio ed è tutto chiuso, perché il romano ne è ottuso e ne è cattivo, negativo come se vivo nel mega schifo. Perché giran tutti a brutto muto a luglio quando è buio ed è tutto chiuso, perché il romano ne è ottuso e ne è cattivo, negativo come se vivo nel mega schifo. Traffico de gente, io schiaffi bro per niente, in un ambiente dove sei strano demente, se sei sano demente, perché Roma Scapoccia, Roma Scapoccia, perché Roma Scapoccia, Roma Scapoccia. Ok, io l'ho capito. Ok, io no bandito partimo, yeah, io non scapoccio partimo, yeah, mo appoggio tu mi seguirai come quando fai dieta e capirai perché non cambio mai meta. Di VX non ce lo fa. Io direi un aneddoto molto carino di prima su Tameto, che guardando il disco con molto interessamento aveva il disco al contrario e leggeva le tracce al contrario per poi accorgersi dopo. In realtà neanche me ne sono accorto, questa è una cosa grave. Vabbè, no, scusate, mi dovete perdonare. Se ieri sera vi siete rilassati anche voi, insomma, mi capirete. Mi capirate. Mi capirate. Vabbè, insomma, questo pezzo che diciamo capita a pennello in queste situazioni, sì, in cui ci ha scapocciato pure il computer. So. L'hai fatto apposta, ammettilo. Faremo un remix per prendermi in giro. Vabbè, senti, niente, quest'altro pezzo che parla di Roma, a me i pezzi che parlano di Roma mi sono sempre piaciuti, perché vabbè, insomma, ci sono nato, ci sono cresciuto e mi piace sempre di più. Sì. E pensare in realtà che per avere un futuro migliore mi dovrei andare è un po' triste. Infatti, almeno personalmente combatto per avere un futuro decente in questa merda. Sì. Vabbè, niente. Ci continuiamo questa chiacchierata come? Beh, io vorrei introdurre un discorso un po' tagliente per i musicisti, soprattutto quelli emergenti. Attenzione. Il tuo rapporto con le label e le case discografiche è un fantasma che ogni tanto aleggia sui musicisti. Sì, sì, questa... sì. E devi aleggiare. Sì, soprattutto perché abbiamo avuto anche ospiti qua che parlavano di case discografiche, di label, e il loro rapporto era molto molto controverso. Infatti si vede che molti musicisti adottano l'autoproduzione, l'autoregistrazione. E volevamo sapere un pochino com'è il tuo rapporto in questo mondo. Allora, personalmente posso dirti che sono a favore del commerciare già da quando il commerciale non c'era. Nel senso, ti spiego, secondo me non è negativa come cosa se un prodotto musicale venda. Dipende poi dal prodotto musicale. Il mio obiettivo dall'inizio è sempre comunque stato una ricerca di evoluzione di stile, di miglioramento personale che penso non smetterà mai, al di là del commerciale, del non commerciale, delle etichette e delle non etichette. Parlando però concretamente, le etichette, le major, chiamiamole come vi pare, insomma, sono il mezzo, ahimè, l'unico mezzo per appunto commerciare realmente. Quindi bisognerebbe passare tramite loro per arrivare ad un commercio tale da poter costruire una vita basata sulla musica. Sì, anche quello è vero, infatti. Il mio non obiettivo, però, insomma, in quanto ricercatore di evoluzione, di miglioramento e di commercio, non disdegnerei una situazione del genere. Perché, quindi con etichetta discografica? Sì, perché, anche perché per quanto mi riguarda vengo da una situazione, diciamo, economica non parioleggiante, insomma. Quindi neologismi qua. Quindi non disdegnerei, appunto. Vabbè, comunque c'è sempre una sottile differenza per chi non la sa leggere, una grande differenza per chi invece la capisce, tra il commerciare musica e fare musica commerciale, naturalmente, sì, no? Sì. Cioè, nel senso, io ci ho sempre ragionato su questo fatto. Sì. Cos'è la musica commerciale? Cioè, i Red Hot Chili Peppers, sì, me li ascoltavo un sacco, ecco, no? Ecco. Andavano un sacco. Ha centrato il punto. Un sacco mi dicevano, ah, quella lì è musica commerciale. Però la musica commerciale, secondo me, non è quella che vende tanto. La musica commerciale io l'ho sempre interpretato come la musica fatta per vendere. Sì, sì, giustissimo. Io, allora, personalmente non ho mai, cioè tendo a non distinguere la musica. Secondo me la musica è musica. La musica è fatta per cantare, la musica è fatta per ballare, la musica trasmette emozioni. Non soffermiamoci a sti scalini di distinzioni, di underground, di commerciale. Analizziamo la musica in quanto musica. Se un prodotto musicale è fatto di livello, è un prodotto serio, è un prodotto valido e vende, non è da condannare, non è da invidiare, è da spingere, cazzo, specialmente se viene da un movimento di nicchia e è nascosto come è stato l'hip hop finora. Cito un nome ad esempio, Fabri Fibra. Secondo me Fabri Fibra è un altro mentore, cioè, se, per quanto mi riguarda Fabri Fibra lo vedo quasi come un santo, un qualcuno che ha fatto qualcosa di molto positivo per quanto riguarda il mio genere musicale. E la cosa che mi dispiace principalmente è che addirittura forse più della metà della gente che frequenta questo movimento nega questo. Metà della gente, la nicchia underground della scena hip hop sputa merda sulla gente che sfonda esplicitamente per invidia, perché magari non ci arriva lui o non lo so, è così, lì la vedo molto dal lato invidioso. Sì, quindi... è come se esci, sì, esci dall'underground e allora lì non sei più parte del, sai, nostro gruppo, dice, ma sei fuori. Cioè, una cosa... Come si dice, se la gatta non arriva all'uva, dice che è acerba. Sì, sì, sì, un sì, po' sì, quello sì, il trick. Sì. Senti, io in realtà ti volevo fare un'altra domanda. Non so se... che ne pensi tu di Marracash, che negli ultimi tempi va molto. Lui ultimamente ha scritto un pezzo che è rapper criminale. Sì. Che nel il fatto che si mette a ridere già si ride, mi preoccupa un po'. Ma mi mette a ridere perché un viziaccio di voi interlocutori mettere in situazioni del genere gli intervistati. No vabbè, se ti metto in difficoltà la possiamo saltare. Tranquillo, tranquillo. No però cioè, mi incuriosiva perché io in realtà di insomma nel mondo hip hop ci ho navigato molto poco. Sto cominciando ad ascoltare adesso e sto cominciando ad apprezzare adesso. Però vedevo che l'uscita di questo pezzo ha fatto molto polemica, perché Marrakesh in poche parole dice: non è che per fare il rapper devi essere per forza un criminale, e nel contrario, cioè se sei un criminale non devi per forza fare il rap, no? Sì. Questo principalmente è quello che dice. Come messaggio indiscutibile, non vedo cosa ci sia di sbagliato. Suscitato le polemiche perché ci sono varie storie dietro che manco ve sto a raccontare, perché sarebbero gossipate di bassissimo livello di hip hop, insomma, okay, cose che allora non, vedo che non la pensano come me, mi tranquillizzo. Ma sì te l'ho detto, è da un po' di tempo a sta parte che ho preso l'abitudine di analizzare un pezzo in quanto pezzo. Cioè, mi soffermo sul pezzo e non vado oltre, perché se c'è da andare oltre, ogni artista ha delle lacune, sì, mostruose, quindi ma io compreso perché se tu ti metti ad ascoltare in fondo ogni mio pezzo ciocchi la cosa che dici: no, questo è un coglione. Ma perché comunque ognuno ha un lato suo che poi sta al soggetto giocarselo, insomma. Se ti piace fare il criminale, farlo vedere, fallo. Se non ti piace, dillo. C'è di libertà di espressione, di parola. Chiunque faccia quello che vuole, il tempo risponderà. Fantastico, una risposta molto bella, insomma, sono soddisfatto. E ci ha fregato a noi categoria radiofonica. Non ci hai fatto entrare in difficoltà, vabbè, te ne puoi pure andare solo per questa domanda, mo ci hai fatto così. Non so se DVX voleva aggiungere qualcosa oppure se ci volevamo ascoltare un altro pezzo o passare alla fase più divertente della trasmissione. Ah, c'è anche una fase divertente. Diverto anche io, quindi. Ma questa luce rossa invece che cos'è? Questa luce rossa è il telefono. Red se era uno lights. Squilletto vuol dire che gli piace. Se è una telefonata forse pure, ma adesso cerchiamo di rispondere. No, era uno squilletto. Vabbè, dai. Qui ricordiamo il numero per poter chiamarci in studio e farci degli squilli. Sono 06 49 1750. Chiamateci, fateci tanti squilli e soprattutto fate sentire a Debit che ci siete. Va bene, senti, dici te, che vogliamo fare? Ci vogliamo ascoltare un altro pezzo? Ci vuoi cantare qualcosa? Ma veramente indifferente per quanto mi riguarda. Tu che ne dici? Vedo David che sorride. Io sorrido perché non vedo l'ora che arrivi questo momento. Però non so se metterlo dopo o adesso. No, facciamolo che adesso se volete, non è un problema. Allora vabbè, dai, cominciamo allora. Senti, che base che vuoi che ti metto? Ho scelto un beat del disco sempre, del beat di Lunghi Viaggi. Lunghi Viaggi, perfetto. Va bene, allora ci spariamo un po' di rime. Te lo sparo. Più leggero io pesante, io alzo il letter. Tu sei marchio, perché vale zero. Sono aperto? Zero, perché pesante, devo essere aperto. È the beat, onda rossa. Se parte sul beat ti sfonda le ossa. È rock, roba tipo Mortal Kombat, Debbie dalla scossa. Onda rossa, compare, non mi puoi parare come sparare sulla croce rossa. È the beach, yo, e quando parto sopra il quarto la voce è la peach, yo. Don't worry, be Debbie, mi rincorri, resta in piedi. Non so se mi vedi, siamo MC's affabili. I'm family, hey yo. Tu strilli se io canto, tu stai brillo. Io sto con Sonia e Birillo, ma intanto ho rime perfette, rime troppo nuove. 87.9, yeah. Mic check, spacco troppo. Sai che c'è, vado al bar, prendo un caffè doppio. Un caffè doppio, di stilone ho troppo. Le rime le raddoppio. Ho troppo flow, ho troppo show, yeah. Il rap te lo creo, è the beat. Faccio un saluto a David e Matteo. Hey yo, oh. rappo e barcollo, ma non mollo. In radio a San Lollo, allo stadio non ci vado e non perdo un minuto davanti all'armadio. Io di rap mi nutro, ehi hey, yo. Tu sei minuto, sei piccolo, io nel vicolo. Sono l'MC più importante, tu il più ridicolo. Yeah, yeah, yeah. Monte delle capre, the beat di rime ne ha molte, te le apre. Eh sì, il silenzio è assordante. Io le rime non le penso, ma ne so tante, yo. Chiamami Dante perché sono il poeta del beat. Stilo importante, ad ogni MC lo piega. E io non ho rivali, non ho stivali, ma sopra il quarto quarto. Chiamami gatto, delle battle me ne sbatto. The beat rima e sembra tipo shake, rattle, roll, tipo rap and roll. Mettici un chitarrista, un batterista, e poi riconosci il nome di chi fa freestyle. Ogni parola fa rima, il mio rap è una favola che conosci già da prima. E The beat in stazione come un treno, non mi freno anche se sembro un cazzone. Ti prendo a pizze, zia, pizze, gia. Ti mando, anzi ti mangio come in pizzeria. Un calzone è una canzone, no è freestyle. E ci credi cazzone solo se ci stai. Dal momento in cui ti avvistai ho riconosciuto che sei un fallito arricchiunito. Hey yo, Romano Calabro, il flow che ti hablo. Io ogni MC lo prendo e lo hablo. Comprendi? Lo stendo, invento. Tu resti intendo, rime come giochi fuochi, giochi alla Nintendo. Il tempo ce l'ho in tasca, saluto il Corax, saluto il Brasca, saluto lo Schetti, rima Debit MC. E tu di fare rap quando smetti, ah. Io voglio vendere perché non ho soldi, tu devi comprendere altrimenti siete sordi. Io risuscito i morti e do fuoco ai vivi, ho stecche sugli incisivi, rapper lassativi fanno cagare. Debit non si può placare, è uno sticker da attaccare, un adesivo. E se scrivo ciò che è vivo, sono l'MC più figo. Rime perfette, pennellate come il numero 7. Lui sfigo, ascolta ciò che dico. Rime troppo spinte, sparo balle come un flipper e vinco tutto come l'Inter. Yeah. Beh, quest'ultima sull'Inter. No. Hai chiuso, è riandato benissimo. Noi hai chiuso malissimo. Te l'ho detto che ognuno ha il lato negativo, no? Mannaggia. Cioè, l'hai detto prima, hai detto sul finale, se ascolti bene i nostri. Sul finale scopri. Dici, il lato guarda negativo, che coglione. E noi ti abbiamo beccato proprio sul finale. Vabbè, no, dai, complimenti. Tra l'altro, insomma, quest'anno. Mi dicevano amici più esperti che ha anche vinto il tecnico perfetto. Questi amici esperti si sbagliano. Vabbè, perciò c'è, no, per quanto riguarda le battle, se vai su YouTube trovi delle battle vinte da me. Sarebbero le Oniro battle, l'Amsterdam battle e la Paris battle. Vabbè, insomma, sì, freestyle ci te la batti comunque. Sì, te la battle comunque. Vabbè, dai, e dopo questa fantastica gaffe, io direi che continuiamo. Non ci può mancare manco quella, insomma, prima non so da dove prima tenevo il tuo disco al contrario. Cioè, me lo sto chiedendo, ma da dove ti è uscito Tecniche Perfette? comunque al contesto poi te lo dico. Sì. Vabbè, che vogliamo fare adesso? Io mi sotterro. Voi? io ti sotterro. Vabbè. Ok, per me va bene così. Intanto spariamo un pezzo, che ne so. Sparate un pezzo. Spariamo un pezzo. Spariamolo allora. Sparliamo. Sempre col CD al contrario, sì, Tameto, okay. Mi raccomando. È perché è troppo facile, dritto. No, uno legge pezzo, è pure corto, ci metti poco a leggere. Ma vogliamo mandare un pezzo del disco o un pezzo playlist? Che ne pensate? Boh, non lo so, decidete. Beh, direi di aspettare col pezzo del disco per farlo ascoltare dopo e tanto mettere una traccia della playlist in ricordo di un grandissimo cantautore morto da poco, degli anni 70, era il leader degli Squallor, era Giancarlo Bigazzi, e questo qua è 38 luglio. Finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico. Il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a pila. Il capo indiano, che si chiamava Mo Venga Anch'io, non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo film. E finiva così, 38 luglio, ricordiamo ancora questo fantastico cantautore che ci faceva tanto divertire e che ci, ancora ci fa divertire, insomma, con questo pezzo dell'elettrotecnico che inventò la pila e che poi ebbe la geniale idea di ficcarsi sotto un tir, non si sa perché. Insomma. E dedico questa piccola frase a un mio amico Lorenzo. Olo, Lollo e Onerols, come lo volete chiamare, l'inventore anche della sigla, intervistato da noi due settimane fa circa. No, un giorno... provo precise, no, circa. Circa. David, il tempo è sempre stato soggettivo, capito? Dice, sai che due anni fa, dai, dall'altro ieri, veramente. Allora, io col flusso temporale ho un grave problema. Io ho ancora la bocca impastata da ieri. Vabbè, comunque, a parte quello, andai a Manhattan e incontrai Panhattan. Questa è una grande frase ideata da Picazzi. Che genio, che uomo. Vabbò, torniamo sul tema principale della puntata. Insomma, David sta ancora qui a farci compagnia, ci fa molto piacere. Ah, sì. Tra l'altro, chi è che ti diceva che non ti ripaga i buffi? Ma com'era il post che era arrivato? Ci arriva un post sulla pagina di Caffè Doppio. Con scritto, mandate Roma a Scapoccia e dite a Debit che i 5 euro che ancora gli devo, nu gli do. Invece mi sa che te toccherà daglieli, perché ormai lo sanno tutti. È Mattia questo. Sì, questo è Mattia. Allora, un messaggio per Mattia. Te Boschi, io mi ero dimenticato di questi 5 euro, però è stato un grande errore per te ricordarmeli in radio, perché dovrai ridarmeli. Mi dispiace. Hai fatto una cazzata, Mattia, non potevi risparmiare. Debiti, in questo momento si trasforma in strozzino e tra poco sarà sotto casa tua con una spranga. Possibile. Vabbè, senti, io direi che di chiacchierata l'abbiamo fatta abbastanza, non so se vogliamo aggiungere qualcos'altro. Potrei illuminarvi su qualche progetto del momento. Sicuramente. Allora, mi hai anticipato la domanda. Questo sì, non va bene. Vedi che il presentatore sta diventando te. Non va bene. Vabbè, illuminaci. Allora, per quanto mi riguarda, adesso come adesso, sono a lavoro con la Family. Rappresentando Unfamily, vi dico che siamo a lavoro per il secondo tape Unfamily, in uscita, si spera, per primavera 2012. Sarà un prodotto come il primo, scaricabile gratis da internet, nel quale figurerà gran parte della scena, appunto, hip hop romana e non solo. Vi consiglio di restare collegati, stay tuned, e scaricare il prodotto al momento dell'uscita. In parallelo sto portando avanti anche dei progetti non so quanto svelabili, quindi sto zitto e non dico nient'altro. Benissimo, allora, magari diciamo dove trovare l'altro lavoro dell'Unfamily. Sì, che... una cosa che mi dimentico sempre da fa e che bisogna fare sono le coordinate per seguirci. Se voi andate su Facebook, allora, a parte che su Facebook scrivi Debit e te esco, quindi aggiungimi tra gli amici. Esce proprio dal monitor, sì, proprio io. Casa e dice esce... che cazzo è, stava per me. Allora, la prima cosa che esce è il naso, esce tipo un naso e ti dice aggiungimi. No, a parte le cazzate, i nasi, potete aggiungere, cioè, anche se siete cani, gatti, alieni, accetto chiunque, perché uso social network esclusivamente per motivi pubblicitari. E potete anche trovare le pagine ufficiali, che sono Debit aperta parentesi quadra Unfamily chiusa parentesi quadra, o Unfamily aperta parentesi quadra Losc Corax Debit chiusa parentesi quadra. Iscrivetevi alle pagine, seguite e rompetemi il cazzo, tanto sono abbastanza disponibile. Dai. Sì, infatti gli abbiamo rotto il cazzo per venire in stazione qua ed è venuto subito, quindi sì. È un ragazzo molto aperto, possiamo dirlo noi. Comunque metteremo le coordinate di queste due pagine anche sulla pagina ufficiale di Caffè Doppio, così per far parlare anche di questo progetto. Grandi. E in più vorrei dire che è scaricabile Unfamily. Sì. È scaricabile da nelle pagine, sì, nelle pagine ufficiali di Facebook troverete qualsiasi link attinente a download, dischi, video, qualsiasi cosa la trovate nelle pagine ufficiali. Il disco Unfamily, il primo tape, è già scaricabile da Oniro da più di un anno ormai, quasi due, non ricordo, su www.oniro.it, ovviamente è gratuito, e si spera che il secondo volume esca sullo stesso portale. E come concludere? Supportate, scaricate, comprate i dischi, seguite sta roba. Vabbè, e io introdurrei un pezzo, sì, cercando di capire la base. la base è, che è stata fatta, la base è tipo un così più o meno, poi ci aggiungi i bassi, le cazzate più o meno. Quindi abbiamo già scoperto che è la voce di Debit che fa la base di questo nuovo pezzo, e direi di ascoltarcelo. Sì, questo è il pezzo, il singolo del disco, il primo video estratto dal disco. Il pezzo si chiama Numeri, il beat è prodotto da me e PHL, io alla beatbox, PHL all'editing e al lavoro digitale. Numeri, Debit, Don't Worry Be Debit, onda rossa. Io tra l'altro nel video appare anche il numero 10 della maglia del magico capitano, e tu ci vieni a citare l'Inter, io non lo so come ti è venuta. Se beat tutte prefisso 06, me fisse è vero, ok, sgeizer il conto è fisso, ehi, chiama me Zè, nato il 23, scuscio sicuro, bucio te, aiutami te, la vita è fatta di numeri, quindi avrai già capito che non so fatto bella vita, non ho mai fatto bella vita, 4-4 nella sfida, al quarto quarto cosa vuoi che dica, non mi superi, super D è matto, fra sbrocco senza un super beat in 4-4-8, come i gatti ne ho 44, un dato di fatto, rap, matematica, fatti e pratica, hai fatto 30, fa 31, pure un cazzo è tutt'uno, inventa rap, razzo nel culo, chiudi le gambe, prendi solo busto in tutti i sensi, stensi te le, chiude la grande. Di certo molte t'arrabbi, sui beat fa numeri, li invento come gli arabi e tu non mi superi, yo. Di certo molte t'arrabbi, sui beat fa numeri, li invento come gli arabi e tu non mi superi, yo. Zebit, conti presi male, li smonto. È rap lessicale, pare che state lessi, messi male, scendi in campo, eppure se stanco, manco, Messi vale, è la rima più figa, strofe perfette, per sette strofe, non cambio figa, né te. Ho più numeri della rubrica di ogni tua singola amica, spingo fra, ci sto sotto, visto molto, come per strada alla barca della Q8, eh? Per questo so la differenza tra chi numeri li ha e chi li dà come all'otto. Calcola qui, c'è il lume, sì, dal martedì al lunedì ho numeri da calcolatrice. Ogni rima che ho fatto fra dice, si è al quadrato fratto quanto sto fatto sotto radice. Di certo molte t'arrabbi, sui beat fa numeri, li invento come gli arabi e tu non mi superi, yo. Di certo molte t'arrabbi, sui beat fa numeri, li invento come gli arabi e tu non mi superi, yo. Tu non mi tu non mi superi, yo. Non c'è due senza tre, certo, parti in quarta e pensa che ne ho 300 come a Sparta. Non do il mio numero, se certo, guarda, mi bevi come Fanta, sei certo, guardia. Sulle spalle come scialle, debita, rime calle, numeri con me, pagine gialle, le balle sul mio conto non le conto, racconto che i conti non tornano, sostanza torna conto, rammonto conto rosso come l'unicredit. In algebra ancora un debit, il numero trasforma senza merit, e piace fra chi migliora il credit. Credi mo, vedi il concetto, fila in fila al concerto, perciò ammira, bello, nessuno, so uno, nessuno, 100.000 come Pirandello. Di certo molte t'arrabbi, sui debit fa numeri, li invento come gli arabi e tu non mi superi, yo. Di certo molte t'arrabbi, sui beat fa numeri, li invento come gli arabi e tu non mi superi, yo. Tu non mi tu non mi superi, tu non mi tu non mi superi, e finisce anche questo pezzo. Con questo tuo beatbox. Purtroppo finiscono. E con questo pezzo direi che è conclusa anche questa puntata di Caffè Doppio. Sono arrivate le 18:51 secondi. Qua stiamo andando fuori dall'orario, però per problemi tecnici siamo entrati 3 minuti dopo e ci prendiamo anche questo piccolo. Sì, tra l'altro possiamo dilungarci anche qualche minuto se vogliamo. Ci chiamava poco fa Giasi per annunciare che la sua trasmissione per oggi purtroppo non andrà in onda. Noi la salutiamo e diamo l'appuntamento da parte sua per domenica prossima alle 18. Yeah. E vabbè, allora che facciamo? Ascoltiamoci un altro pezzo insieme e poi chiudiamo. Va bene. Vogliamo ascoltarne un altro tuo oppure... Perché mi metti il disco dritto? A me mi piace più al contrario, ancora non l'hai capito. È un quarto d'ora che stiamo girando il CD, che lui me lo gira e io lo rigiro. Che cazzo? Fate una fotocopia, scusa, me l'ha data a me il debit. Si combattono il disco. Sì. Vabbè, noi avevamo preparato in scaletta un pezzo del Colle del Fomento, che tra l'altro, insomma, citavamo anche adesso in fuori onda. Direi che ce lo possiamo ascoltare e poi vediamo che fare, come chiudere. Sì, è un pezzo preferito dell'ultimo disco che vabbè, presentacelo tu che abbiamo visto che sei molto bravo. Il pezzo si chiama Ghetto Chic, Colle del Fomento, Roma. E questo era il nuovo presentatore di Caffè Doppio, il Debit.

Abbiamo anche sforato di 6 minuti, insomma, però non ce lo possiamo permettere. Ce lo possiamo permettere, ormai non ci va più di andarcene. Io devo dire, mi sono innamorato del tuo freestyle e del tuo sorriso. È proprio, che pensi che sono stupido come Tom Copertina? Ecco, rivelazioni. E soprattutto a lui gli piace il suo sorriso, però al contrario, sì, perché sempre, nel disco, no? Si vede al contrario, e lui gli piace. Ah, perché poi se lo metti al contrario diventa una piramide massonica, quindi funziona, capito? Un sacco di cose. Geniale. Simboli nascosti nei CD di Debit. Va bene, senti, allora arriviamo proprio a conclusione. Noi ti ringraziamo per essere venuto qui ospite a Caffè Doppio. Grazie a voi, grazie a Onda Rossa, alla disponibilità che chiunque dà, chi fa musica. Grazie a te, e non escludiamo, insomma, di riospitarti nel futuro quando avrai da ripresentarci qualche altro progetto. Chiamate, fatemi va bene. Allora, sono le 16:07 primi, sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ci potete contattare allo 06 49 1750, oppure ondarossa@ondarossa.info. Vi ricordiamo che Onda Rossa è una radio senza padroni e soprattutto senza pubblicità. Si sostiene solo grazie ai vostri contributi, e se non l'avete ancora fatto, se volete ricontribuire, potete utilizzare il conto corrente postale 618 04 001, da intestare a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00185. Per Caffè Doppio è tutto, l'appuntamento è alla domenica prossima, sempre alle 5, e naturalmente ricorderei, non pagate il canone Rai. Fate un contributo alla radio. Ecco, il canone, cancellate il conto corrente che c'è scritto sul bollettino del canone e metteteci quello. Basta della radio. Basta con questa televisione spazzatura, mamma, andiamo avanti le radio indipendenti. Fanculo il canone Rai, viva i cannoni, dai. E con questa rima concludiamo, vai con la sigla. Yeah. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè è la seconda materia prima trattata sui mercati finanziari. 70 milioni di tazzine al giorno. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè, il caffè. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.